Pronto, sono Riccardo. Ciao, sto tornando da una partita di calcio. Sì. Potresti non dire per 5 minuti delle parolacce? Beh, questo è buono. Lei è un bambino, sta in macchina con suo padre, eh? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Si arrendono mai. Hey, in questo mondo di santi, il nostro cuore è rapito da mille profeti e da quattro cantanti. Vedete, mentre noi siamo saliti in alto per difendere la carta fondamentale e ci avete chiamato moralisti, e ci avete multato, Presidente, per questo, voi vi arroccate nel bunker in basso per tenervi stretto al malloppo. E noi, Presidente, continueremo ad opporci e continueremo a chiamarvi ladri. Però voi dovete lasciarlo parlare. Deputato Fraccaro, concluda il suo intervento se... Vorrei poter parlare. Allora... Viviamo solo di scandali e ci sposiamo le vergini. Ci arrabbiamo, preghiamo, gridiamo, piangiamo e poi leggiamo gli orari. Un deputato grillino grida ladri, ladri in aula. Però ne combinano di tutti i colori, eh. Sentiamo per esempio Fico. Sai chi è Fico, Parenzo, no? Quello della commissione di vigilanza. Quello della commissione di vigilanza, che sì, è sì. Il grande cattone. Il alza la voce che non si sente un cazzo. Fico, che se la prende con Quinta Colonna. Voi del Movimento 5 Stelle, questa cosa delle pensioni che hanno messo il blocco, delle pensioni... Con le interviste mentre uno corre. Vabbè, sono... Le interviste si concordano, cioè tu mi chiami... Ah, le interviste si concordano. Le interviste si concordano. Posso chiederle qualcosa sulle pensioni? Ma tu chi sei? Quinta Colonna, Rete 4. Non mi piace il tuo programma, però. Parliamo sulle pensioni, avrete un'idea voi del Movimento, se io vi chiedo... Ma hai capito che il tuo modo di fare giornalismo è un modo che anche proprio devasta il paese, l'informazione, i cittadini? Signor Fico, se la prende con quello di Quinta Colonna, devasta l'informazione e il paese. Quinta Colonna, Fico. E dai, su. E dai! Dai! C'è un'altra dei 5 Stelle, la signora Taverna, senatrice, che se la prende con la 7, con la gabbia, un'altra campionessa qui, Taverna. Senti. Perché fai questa sfilata di 5 Stelle? David, o ti metti in una posizione in cui si prende qualcosa e si sente, altrimenti rinunciamo, eh? Io mi creda, non vedo spesso la televisione. Ho tanto rispetto per lei, ma veramente è un brutto panorama quello che danno dimostrazione i suoi perdoni. Sì, non mi permette come. Ma parla poi la signora, guardi, non entro. No, guardi. Mi perdoni, ma è veramente, cioè, non è un format nel quale riesco a rimanere impassibile. Sono una persona. Se ne può sempre andare, però, se ne può sempre andare. Siamo qui, la Zanzara 800240024, caro Parenzo. Beh, il reato di clandestinità. Alcuni senatori della Lega fanno passare un emendamento in cui si toglie il reato di clandestinità. Sei d'accordo pure tu? Lo sappiamo, lo sappiamo. Senti però Grillo, quando diceva nel gennaio del 2012, sono passati quasi due anni, delle parole a favore dell'immigrazione. Niente, va via per non morire, va via perché c'è una guerra, va via perché c'è un maremoto. Come fai a fermarli? Bisogna creare delle strutture intelligenti, di inserirli piano piano a fare delle cose, perché sono gente straordinaria. È un processo di cui non se ne può fare a meno. Arrivano a riprendersi un pochino di quello che gli abbiamo tolto in 200 anni. Oggi Grillo scrive per smentire i senatori dei 5 Stelle, non della Lega, ho avuto un lapsus ma in realtà abbastanza freudiano, cioè senatori dei 5 Stelle che hanno proposto l'abolizione del reato di clandestinità. Scrive però Grillo sul blog, che se avesse proposto l'abolizione di questo reato il Movimento 5 Stelle avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefonico. Dunque sostanzialmente smentisce, sbugiarda i due senatori. Profeti e da quattro cantanti. Messaggio di Grillo e Casaleggio insieme. Noi stiamo bene tra noi. L'emendamento è un invito agli emigranti dell'Africa e del Medio Oriente a imbarcarsi per l'Italia. Cioè, praticamente un leghista. Cioè, Grillo e Casaleggio, due leghisti. Io sono d'accordo con loro in questo caso. A spada tratta. Ma poi a proposito di grillini, sentite come si esprimono in aula. Mentre sta per parlare uno, l'altro gli dice in romanesco. Sentite bene. È chiesto di parlare a titolo personale. Oddio, non leggo più. Baroni, deputato Baroni. Ciccio, fai il culo. Grazie, gentile presidente. A Ciccio, fai il culo. Un grillino in aula a un altro grillino. Vabbè. Viviamo solo di scandali e ci sposiamo. Mezza rivolta tra i grillini, tra i senatori grillini, anche se non lo dicono in molti esplicitamente, contro Grillo e Casaleggio, che non vogliono l'abolizione del reato di clandestinità e secondo me fanno bene. Una piccola scheggina di Radio Belva di ieri sera, di Villaggio? Di Villaggio, silenzio. Beh, la vecchia, sì. Che facciamo? Ho paura della vecchia? Sì, sì. Sentiamo, sì. Villaggio. Chi sta parlando adesso? Maria Giovanna. Ho detto che lei ha ragione. Certo che ha ragione, io ho solo paura di quella vecchia... Io sinceramente non vorrei fare un incontro di pugilato con lei perché vedo che molto importanti. Va bene, siamo qui 800240024. Siamo con il mitologico deputato francescano di Scelta Civica, Mario Sverna. Buonasera a voi. Come andiamo? Bene, grazie. Senta, lei che ha fatto? Ha preso, come ha fatto Khrushchev una volta, il suo sandalo e lo voleva lanciare contro quel deputato dei 5 Stelle che le ha dato del ladro? Ascolti un attimo, ieri sera un altro deputato del 5 Stelle ha concluso la sua relazione in Parlamento facendo un vero e proprio elogio dell'egoismo di Stato. Cioè? Questa mattina ha fatto un elogio dicendo che praticamente noi la Grecia non dovevamo aiutarla, non dovevamo aiutare nessuno, dovevamo farci solo gli affari nostri. Quello che ha confermato poi Grillo stamattina alla fine, perché se legge quello che dice Grillo nel blog, dice esattamente questo. Ma siamo abituati ai cambiamenti di opinione di Grillo, no? Un po' spacca il computer, un po' ci vive. E ci vive bene, basta guardare le pubblicità sul suo blog. E mi sento questo qui, arrivato, con tutto il rispetto, arrivato con 50-60 click, perché questa è la storia dei cittadini nelle istituzioni, 50-60 click, andare a dargli del ladro ad uno, se mi permette, Cruciani, che in tutta la vita ha insegnato ai propri figli, come l'ha preso da sua madre e da sua nonna, a non toccare un solo spillo che non sia... Però scusi Sberna, perché si è sentito coinvolto in questa cosa? Non è che le ha dato del ladro esattamente a lei? No, ha dato del ladro esattamente a me, perché nel momento in cui una persona ha scritto un testo, non sto parlando di una cosa venuta a braccio, non si vedono le immagini, ma il testo era letto, per cui scritto stava pensando, girandosi verso di noi, tra l'altro, sì, stava pensando che Scelta Civica e il PD e a questo punto anche Selfo sono tutti dei ladri. Allora, o lui specifica, io poi gliel'ho detto, o tu specifichi nome e cognome dei ladri, sì, ma tu me non mi metti in mezzo i ladri, perché io ladro non sono, io non ho preso un soldo dal finanziamento pubblico ai partiti, tra l'altro, io non ho speso soldi per fare la campagna elettorale, sì, soprattutto non ho mai toccato un solo soldo che degli altri. Scusi, anzi, Sberna, ma che voleva fare? Che voleva fare con questo sandalo? Poi tra l'altro, sì, quello è stato un gesto che evidentemente è anche frutto di una mal sopportazione ormai dell'arroganza con la quale si pongono, insomma. E dopo anch'io non sono un santo, sa, guardi il Vangelo di stamattina di San Luca, ricordava Gesù nel Vangelo che, sì, noi uomini siamo cattivi, però siamo capaci di gesti buoni, e se siamo capaci noi di gesti buoni, figuriamoci il Padre nostro che sta nei cieli. Ecco, ma l'affermazione di Gesù è vera, effettivamente abbiamo dei comportamenti cattivi, ogni tanto viene anche a me, ma la cattiveria, cioè ogni tanto, dice lei, ogni tanto anche i buoni si incazzano, insomma, anche no? Le formiche, se la ricorda quella, come ecco, no? Ogni tanto anche le formiche, e lei si immagini tutte le formiche del sud del mondo costretti ormai da decenni a subire violenza. Lei dice che non è d'accordo sul, no, non sono d'accordo, ma non perché non perché me la prendo con quelli del sud del mondo, perché secondo me uno stato si deve difendere da una possibile invasione, si deve comunque mettere delle regole, e una di queste regole potrebbe, anche in altri paesi c'è il reato di clandestinità e non sono certamente considerati dei paesi antidemocratici. Quando stiamo parlando di profughi, non parliamo di clandestini, stiamo parlando di gente che fugge da governo. Ma anche lì non è che tutti i profughi devono essere accolti, Sberna, se uno accogliesse tutti i profughi sarebbe finita, su. Infatti una proposta intelligente che non può venire. Però scusi un attimo, adesso rientriamo su questo, scusi un attimo Sberna, ma questo sandalo in mano, lei veramente che voleva farci? In quei momenti lì? Ma sì, vabbè, lo ammetto, ho chiesto anche scusa, insomma, cioè sì, l'avrei picchiato sulla testa, sì, l'avrei probabilmente anche fatto in maniera plateale. Come si fa? Sì, da arrabbiato, ma sì, ma non si può non essere arrabbiato quando si viene a distruggere la vita di una persona di 53 anni, sposato a 28 con la moglie e con 5 figli, andava a dargli del ladro, ma insomma, ma con che diritto dai del ladro agli altri? Le zanzare di casa mia. Non c'è un paese in Europa o al mondo che c'è uno con un piccone, sta lì delle ore e non succede niente, ammazza tre persone ed è un clandestino. E allora se parli dei clandestini, la sinistra ti dice subito che sei un razzista. Non si siede a un tavolo e ti dice: ma come cazzo è che c'è un clandestino qua? Vai un po' negli Stati Uniti a fare il clandestino negli Stati Uniti. Sono pazze del mio sole. Beh, era un grillo contro i clandestini. Questo grillo mi fa emozionare. Quando fa così mi fa emozionare. Mi fa emozionare, caro Sberna. Lo so che lei non è d'accordo, però un grillo, no, così. Non sono d'accordo, anche perché è detto da un miliardario che salta da una villa, grilla da una villa all'altra. Ma le raccomando, se mi fa emozionare uno così, per carità. A me, però, uno che carica così, che si carica così per il fatto che negli Stati Uniti non esistono i clandestini. Ora non mi dirà che gli Stati Uniti sono un paese fascista, caro Sberna, no? No, non sono un paese fascista, ci sono i clandestini anche in America, che si informi un po' anche Grillo, ma non sono i clandestini che io sto, di cui sto prendendo le difese, sono la gente che sta morendo sotto le violenze di dittature e anche della fame, sa, perché la fame è una dittatura, è una violenza. Però scusi un attimo, ma alcuni, che cos'è che non le va dei grillini? Che discorsi fanno? No, e non posso generalizzare nemmeno io, perché sennò sarei veramente disonesto, cioè sono alcuni veramente molto bravi. A me che dà fastidio è questo modo arrogante, dà fastidio, è veramente offensivo, questo modo arrogante di porsi come gli unici detentori della verità, perché eletti dai cittadini. E allora è bugiardo che siano eletti dai cittadini ed è bugiardo che siano i detentori della verità. Per cui il dialogo all'interno del Parlamento, che si chiama parla apposta perché bisogna parlare, il dialogo deve essere fatto. Ho capito, ma che cosa le ricordano alcuni discorsi dei grillini? Che ne so, quello che parlava della Grecia prima, che cosa? Ma Goebbels mi ricordava i discorsi dei nazisti. Ma quali? No, quali discorsi? Quali discorsi? Ma quelli dell'unica razza, no? Del chiudersi, perché gli altri sono tutti infetti, gli altri non ci interessano, gli altri non devono avere niente a che fare con noi. Guardi, Don Milani diceva che se noi ci arrogavamo il diritto di dire facciamo parte di un paese piuttosto che un altro, sì, lui diceva che invece il mondo lo divisa tra ricchi e poveri, si sente straniero con i ricchi, sì, e in casa sua con i poveri. Sì. Io la stessa cosa. Io ritengo che il mondo è il mio paese, sì, e l'umanità è la mia gente, tutta l'umanità, anche, sì, i cattivi, anche se anch'io talvolta sono cattivo. Un attimo solo, sì, ho capito benissimo. Parenzo, come carico il signor Sberna? Hai sentito discorsi di Grillo simili a quelli di Goebbels e dei nazisti alcune volte? No, ma ha ragione. Ma che ha ragione? Ha ragione, tra l'altro non abbiamo usato la parola vomitevole per descrivere alcuni atteggiamenti. Ma io non ho capito, ragazzi, ma state scherzando? Uno non può essere contro il reato di clandestinità e non può dire che ci vogliono delle regole e viene accostato a Hitler e a Goebbels. Dai, su, non esageriamo. No, non lo può dire. Se non conosce la situazione nella quale vive questa povera gente, non lo può dire. O comunque non può arrogarsi il diritto di dire che tutti gli altri che non la pensano come lui siano dei ladri, dei malfattori, dei delinquenti e che devono andare tutti a casa. Senta quest'altra cosa, sui carabinieri, Grillo, era un video vecchio di un comizio, credo addirittura di uno spettacolo, che istruisce i carabinieri su come menare i marocchini rompicoglioni. Se i marocchini vengono qua a rompere i coglioni, a ubriacarsi, a rompere vetrine, o vengono qua e rispettano le regole, sono fuori dai coglioni, io sono esattamente... Ma no, momento! Però, vuoi dare una passatina a un marocchino che rompe i coglioni, lo prendi, lo carichi in macchina senza che ti veda nessuno, lo porti un po' in caserma e poi gli dai magari due schiaffetti, lo fanno tanto, ma in mezzo alla strada non è possibile. Oggi con un telefonino fanno succedere un casino, l'immagine di quel telefonino lì è andata a un miliardo di musulmani. Sono coglioni e li vedevano col telefonino. Ma era il 2006, poi avete un discorso molto articolato, eccetera. Però insomma, è un Grillo che già nel 2006 era durissimo sull'immigrazione clandestina, no? Sberna. Sì, ma dico, però intanto la moglie se lo ricorda che durante la campagna elettorale invece andava a Malindi in Kenya a farsi le ferie, a bagnarsi i piedini, poverina. Per cui il sud del mondo va bene soltanto quando c'è da approfittarne, quando c'è da fare la bella vita, senza fregandosi totalmente dai regimi totalitari, dalla povertà che vivono le persone. Ma come si fa a pretendere di essere in politica così, in questo modo, senza guardare un minimo? Lei Cruciani fa il suo mestiere, ma Grillo ne fa un altro, fa il politico. Però Sberna, mi scusi, Grillo dice dice semplicemente che se avesse proposto l'abolizione del reato di immigrazione clandestina durante le elezioni, il Movimento 5 Stelle avrebbe preso voti da prefisso telefonico, con percentuale da prefisso telefonico. Sì, fa politica pure lui. Sì, cioè, fa politica facendolo in una maniera il più vergognosa possibile, perché a questo punto ci sta dicendo che le cose che dice sono per la pancia della gente, per prendere i voti. Cioè Grillo non lo fa per il bene del paese, ma semplicemente per prendere voti. Prendere voti, dopo non si sa per farne che cosa, perché io di risultati grandiosi non ne ho ancora visti, tra l'altro, perché anche andare sul tetto di quella scatola di tonno che bisognava aprire significa chiuderla, andare sopra. Comunque Sberna, loro pare che risparmino su un sacco di cose i grillini. Lei per esempio in treno li vede qualche volta viaggiare? Guardi, se la vuole sapere proprio, sì, settimana scorsa, ma proprio me l'ha tirata fuori questa, sì, settimana scorsa io ho preso il secondo, come lei sa bene che non mi permetterò mai, sì, di usare i soldi dei cittadini per andare in prima, e c'era in business class un grillino che si stava guardando il sito di Beppe Grillo e si ascoltava la musica e ballava mentre stava seduto. Perché io l'ho notato? Perché il controllore, quando è venuto a farmi il biglietto, sì, mi ha detto: ah, anche lei è del Movimento 5 Stelle, che è in seconda. E io ho detto: no, io sono di scelta. No, civica. Lei mi sta dicendo che tutti i grillini vanno in prima classe? No, non sto dicendo questo, sto dicendo di quello che è avvenuto, e cioè che il controllore mi dice: non c'è proprio più religione, uno dei 5 Stelle in business e uno di scelta civica in seconda classe. Al che mi sono alzato, sono andato a vedere ed era effettivamente vero. E chi era? Chi era questo? Non glielo dico il nome, però può credermi o non mi può credere, però anche quelli sono soldi portati via ai cittadini, perché siccome me lo paga lei il biglietto, sì, Cruciani, se non lo sa, invece è così purtroppo. No, ma ho capito, lo so. Pagano tutti gli italiani, faglielo pagare il secondo, faglielo pagare il primo, c'è una bella differenza. Grazie Sberna, buon treno, perché adesso si sta imbarcando anche lui. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Cucù, scusate se vi ho disturbato. Notte, e dorme in un tombino. Sei ancora a casa, Emo? Beh, il nostro amico Silvestris, caro Parenzo, Silvestris, eurodeputato pugliese gaspariano, il quale dice che gli assistenti de sinistra dei parlamentari europei, sì, vanno ad Amsterdam a farsi le canne, ti giuro. Vanno ad Amsterdam a farsi le canne in massa, si parlava. Signor Silvestri, un mito, una leggenda, un abbraccio fortissimo. Senti. Ma perché? Dopo questa direttiva, se sarà approvata, commissario, ad Amsterdam si potrà andare nei coffee shop a comprare cannabis per farsi una canna. E i ragazzi di 18 anni potranno farsi legalmente ad Amsterdam una canna, un torcione, ma non una sigaretta al mentolo. Se questa le sembra una cosa che ha una sua logica, commissario, io sono curioso di capire quale sia. Se non sa dove si vendono, dove si vende la canna, lo chiede ai tanti assistenti dei deputati di sinistra che vogliono questa direttiva, che da Bruxelles partono ogni fine settimana per recarsi in pellegrinaggio ad Amsterdam. Ma poi che c'entro? Gli assistenti degli europarlamentari di sinistra o degli europarlamentari in generale? Ma di sinistra? Di sinistra? Ma perché solo, perché solo quelli di sinistra vanno a farsi le canne ad Amsterdam? Cosa pazzesca, dai. Vabbè, TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Grillo sconfessa i senatori che hanno proposto l'abolizione del reato di clandestinità, rivolta sul blog. I promotori dell'emendamento: noi non cambiamo idea. Bagara al Senato sul finanziamento pubblico, nuovo braccio di ferro. Poi passa l'accordo nella maggioranza sul tetto alla donazione dei privati. Berlusconi torna a Roma per affrontare le divisioni interne. Congresso PD, sabato Renzi lancia la sua candidatura. Il sindaco ospite del TG3. Allarme del presidente di Confindustria Squinzi sulla legge di stabilità, serve una manovrona, sindacati preoccupati per il mancato finanziamento della cassa integrazione. Grande tensione tra i dipendenti all'Italia, la compagnia rischia il crack, sindacati evitare il fallimento, lupi per il governo è strategica. Stati Uniti, repubblicani a Obama, si può alzare il tetto del debito per 6 settimane, eviterebbe il blocco delle attività federali in attesa di interventi sul bilancio. Sale a 310 il numero delle vittime del naufragio di Lampedusa, concluse le ricerche nel relitto, il dolore di chi cerca i propri cari tra le bare. Allora, quello che è successo ieri sera, mettiamo un po', Parenzo, mettiamo un po' di roba così almeno si scalda, no? Si scalda. Quello che è successo ieri, quello che volete, Sgarbi, dai, Sgarbi contro di me. Perché viene. Ma tu, se ti sei battuto per essere nella lista, per essere un nominato. Non mi sono mai battuto, sì, io sono stare stato nelle liste, non ti hanno messo nelle liste. Non mi sono mai battuto. Ma dai, Vittorio, dillo però. Ma tu dici delle cose diffamatorie, io non sono mai. No, lo sai, volevi stare nelle liste con Berlusconi e non ti ci hanno messo. Ma non mi sono mai. Ma tazza di merda! Oh! No, non ci sono mai voluto essere, non devi dirlo! No, se ne conti, allora fai una cosa, documentalo, ti denuncio. Ma lo so, ma ti piscio in testa, faccia di merda. Ma guarda, se devo sentire un cretino, ho fatto esattamente il contrario. La prima dichiarazione che ha fatto presidente del suo partito della rivoluzione, sì, il 14 luglio, ha detto: Berlusconi non è in grado di fare il premier. Va bene, abbiamo capito. Ma ti sembra che uno, ma ti sembra che uno che vuole andare in quel partito dice così? Chiaro? Quindi non rompere il cazzo e dire la verità. Ma te perché ti piccio il contrario, no? Ti piccio in testa, sono qua apposta. Hai rotto il cazzo. Altrimenti avrebbe detto il contrario. No, voi vi comportate seriamente, no, non sono qua. E che me ne vado anche subito. Cioè, non sono qua a fargli prendere per il culo le due facce di merda. Ma come due teste di cazzo? No, che non valgono un cazzo. No, dai. Avete rotto i coglioni. Che poi lui tiene fuori che vuole essere candidato è un'offesa, per cui io da voi non verrò più. Ma no, avete rotto il cazzo, no? Non sono qua a farvi offendere da due sulla schiantati. Ma che sbiattati? Se fosse vero, perché è un'offesa? Tu volevi essere candidato. Tu volevi essere candidato. Tu, da N, io ho visto, tu, me l'ha detto Fini. Fini mi ha detto quel cugino, veniva a leccarmi il culo per essere candidato. Te lo dico io, e anche lui, lui dalla Lega, da Bossi, ho visto, voi due, lecca culi, lecca culi, vi ho visti io. No, oh, che poi voglio dire, io che avrei fatto non so che cosa per essere candidato Confini che ho attaccato a destra e a manca. Poi ma non so io con la Lega. E tu con la Lega? Lega. Tu c'entra? Avresti fatto carte false con la Lega. Vabbè, dai. C'entra? Ma poi se l'è prese pure con Annarella, poverina, povera Annarella, dai, su, e dai. Chiedi scusa. Tu non rompere i coglioni che tu, eh? Non rompere il cazzo a me, che ce ne rompi il cazzo anche tu. Va bene, 800 24 00 24. Marco da Milano. Adesso Parenzo, non fare la solita battuta. Marco, no, da Milano. Marco da Milano delle Stretto. No, non c'entra niente. Marco da Milano. Marco? Sì, vada, sì. Vada. Sì, no, non sono il famosissimo celeberrimo giornalista dell'Espresso. Vabbè, celeberrimo, famosissimo, sì, conosciuto, eccetera, sì, però dai, celeberrimo diciamo addirittura, così. Per carità, lo abbraccio fortissimo, però vai. Sì, no, certo, qualcosa di intelligente anche lui lo dice. Ma sì, sempre. No, anzi, io volevo, cosa devo dire? Nulla, beh, non saprei più cosa dire, talmente tanta carne al fuoco in questi giorni che... Vabbè Marco, effetti... siccome deve intervenire, deve fare un intervento su un argomento, uno, ah, due, sì, quello che vuole. Allora su quello su quale me l'ho ripromesso di intervenire, sull'intervento a gamba tesa del Re Sole nella diatriba, sì, 5 Stelle Giorgio, diciamo, ecco. Vergognoso, no? Vergognoso che Parenzo lo difenda, cioè in quale stato democratico a parlamentare, una democrazia parlamentare, il presidente si permette di rivolgersi così all'unico paese in opposizione? È vergognoso. È vergognoso, solo questo, non si può dire. Ma Parenzo, però vabbè, voglio soltanto elencare due cose, solo due cose voglio dire, posso? Dica. Allora, voglio soltanto ricordare il celeberrimo discorso di Violante del 2002 di Camere. Senta, a noi del discorso di Violante non ce ne frega niente. Lei ha criticato. Voglio soltanto dire che i tre dell'Ave Maria del 94 sono D'Alema, Violante e Giorgio, quello che applaudiva l'entrata dei carri. Va bene, ho capito. Così non sarebbe più in Parlamento. Ho capito, grazie Marco. Gianni da Verona, buonasera Gianni. Sì, buonasera. Dica. No, io vorrei dire che i signori buonisti come Parenzo potrebbero, per non essere ipocriti, andare a prendersi, destinare il loro stipendio, non so, il 50% del loro stipendio, andare in Sicilia a prendersi il negretto, no, 2, 3, quant'è? No, a prendersi il? A prendersi i profughi. No, lei ha utilizzato una parola prima, a prendersi il? I negretti. Lei con che spirito lo dice questa parola? Con che accento la pronuncia? Per prendersi i negretti, i no? Negretti, esatto. Loro, siccome io non sono buonista, sì, però il buonista, siccome il signor Parenzo è buonista, lui è buono. No, dice Parenzo che lei è un coglione, non è un... Lei è un coglione. Oh, ma io lo accetto essere un coglione, però non sono mica buonista, però il buonista, però non sono neanche ipocrita, come Parenzo, perché i signori profughi, i buonisti, se li possono portare a casa loro, li nutrono, li fanno mangiare, li nutrono, poi quando sono ben pasciuti si hanno per la casa mogli, madri, figli, danno anche loro che si divertono, hai capito? Possono fare no, però li chiami come ha fatto all'inizio, i negretti, perché lei li chiama così perché non li sopporta, non sopporta i negri, lo dica. Come li chiama? Ecco. No. Allora, il discorso è questo, in Italia il negretto serve per distruggere l'economia. Per distruggere, per distruggere. Non ha nessun tipo di protezione. Stiglitz. Un attimo solo, ecco Gianni, Stiglitz. Le risponde Parenzo, vai. Certo. Ecco Stiglitz, ma parlatene col premio Nobel per l'economia, il coglione, da dov'è questo coglione qui che chiama? Dal Veneto hai detto? Da Verona, sì, da Verona. Da Verona, certo, da Verona. E allora, deve sapere che in Veneto c'erano un sacco di persone che migravano in Australia per andare a lavorare. Allora, questo razzista, che schifoso peraltro, razzista schifoso con la pancia piena, perché questo qui è un razzista schifoso con la pancia Gianni, piena. Gianni, risponda! Pancia piena. Non sei richiesto, ti tiro una fucilata, cretino! No, scusi, che fa lei? No, importante, cosa fa lei? I toni cosa fa lei? Cosa fa? Per andare nel mondo a lavorare. Zanza, zanza, zanzare. Il treve di montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza. In questo modo, zanzare. In questo modo la zanzara ha incastrato Don Mazzi. Iniziamo da una cosa, caro David, iniziamo da una cosa fondamentale, da una cosa fondamentale. Le parole di Don Mazzi pronunciate a radio, TV, eccetera, su Berlusconi. Io me lo prendo come prendo, come ho preso tutti, si alza la mattina alle 6, si fa la sua ora di footing, si pulisce il gabinetto, si fa la sua camera, lavora secondo gli orari che ci sono, se deve fare se deve pulire la sala da pranzo, pulisce la sala da pranzo, deve fare il diario ogni giorno, un'ora di diario, deve fare la verifica e io a pranzo mangiamo insieme, perché io mangio sempre insieme con i ragazzi. Bel tranquillo nella mia stanza, a Mundele per fa l'amore, morsicciare tutta un tratto. Potrebbe qua recuperare un aspetto che è quello del rapporto con la comunità, con il o qua o altrove, secondo me li farebbe bene nel silenzio, in un ambiente normale, con dei ragazzi che hanno sofferto, capito? Con della gente che li vuole bene, al di là che sia bianco, rosso, verde, capito? E con il lavoro? E con il lavoro, la fatica, sai, vedere Berlusconi in canottiera, sudato. Pomate, pomatine, citronella, manculurghe, niente fare. A questo punto la zanzara arruola un finto Ghedini che chiama Don Mazzi ed è tutto un altro Don Mazzi, molto più accondiscendente, molto più disponibile nei confronti di Berlusconi. È chiaro che dobbiamo, come dire, poter avanzare alcune richieste imprescindibili, no? Esempio, sì, dai. Beh, per Pronto? Esempio, no, abbiamo letto l'intervista della raccolta sulla raccolta dei pomodori. Insomma, ti ricordi? No, ma ti ricordi che stiamo parlando? Com'è partita? Ti ricordi che stiamo sempre parlando di l'uomo? Sta battuta sta diventando una menata che non finisce più, perché è chiaro che non viene a piantare i pomodori, dico. E nemmeno a pulire i cessi. Poi naturalmente qualora si trovasse nella situazione di dover pulire dei bagni, naturalmente attenzione alla polvere, perché ma no, il problema vero è che i nostri ragazzi la mattina hanno la camera e quando si alzano fanno la camera. Ecco, a proposito delle stanze, le stanze sono decorose, ci auguriamo, no? Sì, sono belle. Una parola d'umanità, te turista in città, se no dormire. Va bene, 800 24 00 24. Ieri sera, tra l'altro, in questa puntata controversa di Radio Belva su... Io la definirei puntata wasabi, diciamo, dal sapore forte. Su Rete 4, signor Paolo Villaggio ha detto... Villaggio, sì, ha detto che il razzismo è un sentimento naturale. Sì, certo. Io sono dell'avviso che è naturale avere un po' di diffidenza nello stringere la mano. Addirittura. Sì, anche tu l'hai fatto. Sì, è un sentimento naturale, bisognerebbe cominciare a stabilire. Vabbè, fallo parlare. Sì, è un sentimento naturale, il razzismo, anche tu sei razzista, lo si vede. Dall'odore. Bravo. Ma che dice? Cioè, sento, io me ne intendo. Fallo parlare, fallo finire però. Sì, fallo finire. Dietro di montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza, zanzare. Una parola d'umanità, te turista in città. Ma vogliamo risentire un grillo sull'immigrazione? Un grillo su Cabobo, vai in America a fare il clandestino e vedi come li trattano? Maggio scorso. Non c'è un paese in Europa o al mondo che c'è uno con un piccone sta lì delle ore e non succede niente, ammazza tre persone ed è un clandestino. E allora se parli dei clandestini, la sinistra ti dice subito che sei un razzista. Non si siede a un tavolo e ti dice: ma come cazzo è che c'è un clandestino qua? Vai un po' negli Stati Uniti a fare il clandestino negli Stati Uniti. E c'è un fresh della miseria, oppure anche la mia donna amici per farla riposare. Bel tranquillo. Allora eravamo con Gianni da Verona. Con Gianni da Verona. Da Verona. Allora Gianni, che cos'è questa storia delle fucilate? Non ho capito. No, allora dicevo che se tu vai a Australia, vai in giro di qua e di là, non è che vai dentro come cazzo vuoi, fai quello che vuoi, capisci? Cioè, ci vogliono le regoline, le regole. Allora? Il signor Parenzo. Il signor Parenzo, allora? Parenzo, adesso dove le prende andare? Là, hanno fatto vedere un servizio dove ci sono tutti questi poveri persone là all'aperto. Se li porti a casa, no? Se li porti a casa sua, capisci? Allora può venire per radio, per televisione, ad essere... Diciamola così. L'ipocrisia del parlare per niente. Diciamola così. Vai guarda, là, prendeteli e portateli a casa e dopo puoi parlare tranquillamente senza nessun problema. Diciamola così, vediamo se la capisci. Mi è difficile fare la pipì se non c'è il batter, cioè io difficilmente quando mi scappa vado in mezzo alla strada e la faccio, no? Cerco un bagno per ripararmi. Quindi rispetto all'immondezzaio di cose che lei ha detto, alla banalità del se li porti a casa sua, tutte robe che fanno parte, come dire, della valigia del razzista di professione, no? I negretti. Il razzista di professione, come lei, con la pancia piena, di Verona. Ma aspetta, almeno il nero sa che io gli do una fucilata che posso. Non come tu, che lo accogli e poi gli vedi nel culo. Ma non ho capito a chi vuole dare la fucilata lei, Gianni, scusi. È una maniera di dire, nel senso io dico che loro potrebbero stare a casa sua. Qua in Italia non servono, stanno a casa sua, basta, capisci? Ma è inutile fare come Parenzo, puoi venire qua, tira fuori i soldi, paga e fai venire a casa tua miliardi di neri che altro non se ne frega, hai capito? Ma non fare l'ipocrita. Parenzo? No, non ma fare l'ipocrita! Fai il serio, portateli a casa! In un contesto normale, questo signore qua lo si vede per un orecchio, gli si tira un grande calcio nel sedere e lo si manda a scuola, non di buone maniere, proprio di rieducazione civica. Perché un signore che ha l'ardire di prendere il telefono, chiamare, lasciare il numero, farsi richiamare, dare il nome e il posto da dove chiama e dire queste cose e non si vergogna, ma non c'è altro che il ricovero. Siccome non è un anonimo, ma è un signore che ha telefonato. E allora che cosa bisogna fare? Denunciarlo? Non ho capito. Ma immediatamente, ma alla procura, alla questura di Verona, ma immediatamente. La vuole denunciare Parenzo, Gianni? Che cosa devo fare? È così, i buonisti sono così. I buonisti sono così, amico mio, andare al processo, buonista, amico mio. Così ti passa la voglia di dire queste trovate. Bravissima, no? Vedrai che la tua valigetta del razzista perfetto, la tua valigetta del razzista perfetto con la pancia piena. L'ipocrita faccio così, l'ipocrita piange, ma poverini. C'era una signora l'altra sera, non so, piangeva, poverini. Oh, portali a casa, ma perché piangere? Agire, bisogna agire. Cioè, secondo lei non bisogna piangere perché uno crepa dentro il mare, ma bisogna portarseli a casa, giusto? Bisogna agire. No, sul fatto di non piangere lei ha ragione, però, perché anch'io mi sono un po' rotto i coglioni di queste lacrime, le cose, la gente che si emoziona, mi sono scocciato, cioè, hanno diritto a piangere i parenti, ma non un politico oppure una persona dell'istituzione che si mette a piangere. Cosa piangi? Che dopo due secondi vi sei dimenticato tutto, dai. Anab da Milano, Anab, signor Anab. Salve. Sì, sono Anab. Anab, la signora Anab. Signora Anab, sì. Allora? Io mi dispiace che ancora oggi, 2013, in Italia esistono gentaglie come quel signore lì che non sa niente dell'immigrazione, non sa niente delle persone che fuggono dove c'è la guerra civile, che hanno problemi veramente serie, che quando sono davanti a televisioni, che hanno un piatto caldo davanti a loro, che mangiano, che parlano e dicono e non sanno ciò che dicono. E allora? Mi dispiace solo quello. Vabbè, Fernando da Como, buonasera, Fernando. Ciao Cruciani, buonasera. Sì, tolga e viva voce. Sì. Sì, non è che sì, uno chiama, lei non dovrebbe stare viva voce, invece sta in viva voce. Avanti, Fernando. Vabbè, Gino da Genova, su. Pronto? Sì, dica. Allora, io sono un... votante del Movimento 5 Stelle, vorrei parlare con più che altro col Parefo, che avrà votato PD meno L, senz'altro, il demente. Mi sente? No, non ha votato, non ha votato David. Ah, non ha votato PD meno L. Io, ecco, volevo dire una cosa sui clandestini, ma educatamente. Tra poco noi italiani andiamo con i barconi. Noi italiani tra poco portiamo via i coglioni da sto paese con i barconi. Ma che c'entra, giovani, scusi? Che c'entra? No, c'entra perché ci siamo rotti i coglioni. Di che i cosa? I buonisti alla Boldrini, alla Vendola. Io da militante del Movimento 5 Stelle, se l'Italia avesse il posto per accoglierli, prima di tutto li stiamo accogliendo in maniera indecente a Lampedusa, in una maniera che non si trattano neanche... Mi viene il vomito a vedere come trattano questi poveri disgraziati, li stiamo trattando in maniera indecente. E allora? Prima di tutto organizziamoci per accoglierli in maniera decente, prima di riempirci la bocca come il signor Parenzo di minchiate. Di minchiate, perché sono minchiate. Va bene, Stefano dalla provincia di Latina, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, io volevo fare un intervento su quello che è successo oggi alla Camera sul Movimento 5 Stelle che ha gridato ladri verso gli altri partiti. Ecco, personalmente volevo dire che ci ho goduto come un pazzo. Beh, veramente. Ma lo so che lei ci ha goduto, sì, certo. No, ma da morire proprio, meglio del sesso. E dopo non so meglio se del... voi avete ricordato... Meglio del... sesso. Meglio del sesso, cioè quando lei sente un deputato dei 5 Stelle... Ma Parenzo, senti questa roba qua. Quando... È meraviglioso. Quando è lei... meraviglioso. Lei sente un deputato dei 5 Stelle che dà dei ladri in Parlamento agli altri, senza specificare chi, come, perché lei gode meglio del tutti sesso? Tutti gli altri partiti, sì. Si sono presi i rimborsi elettorali, sono ladri. Vabbè, Parenzo... Ma non è che ci voglio dire, no, voglio dire, su questo ti stupirò. Ma non mi scandalizza per nulla quello che ha detto il deputato 5 Stelle, il fatto che abbia detto ladri. Beh, voglio dire, Pannella, anche questa volta, questi non inventano un cazzo. La cosa terribile è questa roba qui. Non stanno inventando nulla. Pannella, 20 anni fa in Parlamento diceva ladri di verità, puttane di regime, candidò la signora Cicciolina per dire che il Parlamento era... Appunto, era perché se lo diceva quindi, Pannella all'epoca e dice tutti ladri, non lo possono dire quelli dei 5 Stelle, scusa. Esattamente quello che sto dicendo, infatti nel merito ti dico che non mi scandalizza per nulla. Quello e che allora? Perché no, uno si deve scandalizzare che... da questi qua dei 5 Stelle no, quando no, c'è Pannella che un giorno sì e l'altro pure dice regime, sai, ladri... Esatto, io sto dicendo esattamente questo, che la farsa però, siccome la farsa diventa tragedia quando si la tragedia diventa farsa quando si ripropone. Allora? Questi qui non solo scimmiottano cose già fatte nel passato eppure male, sì, ma sulla questione dell'immigrazione invece dicono delle cose agghiaccianti, cioè lì sì. Ma che agghiaccianti? Ma quando mai? Dicono, ma dicono delle cose, dicono quello che pensano, che il reato di clandestinità non va tolto, non va tolto perché altrimenti... Ma sì, che bisogna usare... Dire prima che ha detto il comico Grillo, disse una roba agghiacciante dopo il fatto di Milano, del signore col piccone, l'immigrato col piccone di Milano, Nabobuli, come si chiama? Cabobo, no? Cabobo, sì, Cabobo, sì, ma che Cabobo. Agghiacciante, qual agghiacciante? Aspetta un attimo, aspetta. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito, la voglia ce l'ho. Oh, è con noi Oliviero Toscani. Ciao Oliviero, come stai? Bella, ragazzi, state bene? Amico mio. Amici miei. Quanto tempo, avevamo i pantaloni corti, ti ricordi? Ma anche tu ti sei messo a fare questa roba sull'abolizione della Bossi-Fini, questa cosa demagogica. Senti, demagogica. Sei un demagogo anche non tu, demagogo. Lo dici tu, è giusto, ricordatelo bene. Allora, la Bossi-Fini non doveva essere fatta dall'inizio, perché io non sono per eliminarla. Ma come no? No, sì, sono per eliminarla, ma il problema è che l'hanno fatta, la testa di cazzo che l'hanno fatta. Mi piacerebbe vedere Fini che dice, abbiamo sbagliato. Invece Fini è sparito, è morto, che fine ha fatto? Ma ha detto che Sgarbi ha detto che tu ci sei una volta proposto. Ma non è vero, è impazzito ieri sera. Ma hai visto com'è impazzito ieri sera? Senti, ma perché andate a pigliare tutti i luoghi comuni facendo la televisione? Siete proprio dei televisori. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Ma come lasciamo perdere? No, che lasciamo perdere? Ma tanto hanno sospeso il programma. Hanno sospeso il programma già. I luoghi comuni, tutti, Sgarbi con la pecora. Neanche la capra, la pecora si è diventata. Vabbè, comunque, al di là di Parietti, Borghezio, tutti i luoghi comuni. Vabbè, Olivier, tanto hanno sospeso il programma, che dobbiamo fare? L'hanno sospeso? Eh sì, perché? Che dobbiamo fare? Perché? Per un sacco di motivi, adesso non parliamo, ma hai sentito... No, parliamo, parliamo, è divertente, tutti vogliono sapere. Ma secondo te, Sgarbi... No, voglio dirti questo, secondo Olivier, te, Sgarbi, voglio... perché sbrocca così ogni tanto? No, devo dire che Parenzo in televisione è più bello di te. Ah, vabbè, questo va bene, questo mi solleva. No, tu devo dire che hai uno sguardo da uomo buono, molto più buono di come parli. Sì? Sì, sì, ha uno sguardo buono. Vabbè, questo è negativo. Anche, direi anche un po' da pirla, si dice a Milano, e mi piace. Scusami, Oliviero, però volevo dirti una cosa. Ma perché Sgarbi, secondo te, ogni tanto sbrocca così, in questo modo? Ma ce l'aveva con voi anche per un po' di gelosia. Ah, dici, dici. Sì, ce l'ha, poi basta prendere Sgarbi. Se tu non vuoi avere audience, prendi Sgarbi. Ah, dici, No, voi è una città degli eroi. Chi prende Sgarbi ormai è un eroe. Cioè, è morto, dici? È come se uno gli puzzasse il fiato, insomma, è così, insomma. Mm. Addirittura? Ti voglio bene al Vittorio, ma purtroppo... Beh, gli vuoi bene adesso? È una parola grossa. No, ma scusa, vuoi bene anche degli amici che gli puzza il fiato, dai. Ma che vuol dire che poi gli puzza il fiato? A Parenzo puzza il fiato? No, a Parenzo no. Parenzo non puzza. No, Parenzo è pulitissimo. Guarda che ultimamente dice delle cose molto più giuste di te. Ma quello sicuro, quello sicuro. Secondo te sicuramente è così. Cioè, chi scusa, è più vecchio dei due? No, io ho quasi 10 anni. Quasi, non li dimostro, 10 anni. Vabbè. Sì, scusami un attimo, Oliviero, però dimmi una cosa. Perché, veramente, a parte il fatto che la gelosia, vabbè, può essere, perché ogni tanto sbrocca in questo modo così? No, ti dico, Sgarbi è una persona fondamentalmente onesta, onestissima. Cioè? E ha un suo senso di giustizia. Sì. Se si sgarra da lì, diventa pazzo, diventa pazzo. Ma che... E poi, quando dice le bugie e le dice, non si rende neanche conto. No, le dice, Sgarbi è fatto così, è inutile pensare... di capire perché Sgarbi è anche così, ho capito, ma è come se a un certo punto gli parte la vena e non riesce più a controllarsi, non so come dire. Poi... sì, ti ho detto, è impotente con le donne, quindi lui l'orgasmo ce l'ha ieri sera urlando a te. Ah, tu dici questo è un suo orgasmo? Quello è il suo modo per avere gli orgasmi. Cioè è venuto? Infatti Parenzo non lo fa venire come lo fai venire tu. Ah, dici, Sì. Cioè tu ieri sera quando l'hai visto lì con la vena è come se stesse venendo. Dico, Cruciani arrappa Sgarbi. Una cosa pazzesca, dai, su. La cosa è vero questo. La definizione più giusta per questo esperimento di Radio Belva è che è un programma wasabi. Cioè il wasabi che è quel... No, però scusa, possiamo andare oltre questa roba qua? Voglio capire... No, sarebbe meglio dei luoghi comuni. Ragazzi, è molto pericoloso fare la televisione dopo che hai fatto la radio. Però lasciamo perdere questa roba, dai, veramente, sennò intavoliamo una discussione su Radio Belva infinita, non è il caso, no, Oliviero, che ce frega, in fin dei conti? No, ma te lo dico così, perché mi sono divertito, devo dire, a vedere. No, è meno male. Tutti i luoghi comuni, cioè, sì, fantastico. Ah, vabbè, tutti i luoghi comuni, dai. Scusami, dai, Oliviero. Pure le labbra della parente, te l'ha detto, basta. Scusami un attimo, Oliviero. 25 anni fa l'ha fatta. Oliviero, scusami un attimo, ma tu perché hai firmato per questa cosa demagogica? Tu pensi veramente che abolire la Bossi-Fini migliori la situazione? Cioè, senti, impedisca a quelli di non arrivare fino a qua, dai. Per fortuna sono inermi. Perché sennò un giorno arriveranno armati, come sono arrivati i conquistadori nel paese del Sud America, arriveranno così come arrivare degli extraterrestri sulla Terra, sì, e allora sarà molto pericoloso. Cioè, secondo te potrebbero arrivare armati prima o poi? Attenzione, perché se noi cominciamo a pensare che noi possiamo decidere le fluttuazioni del mondo, noi, perché? Sì. Perché siamo solamente più ricchi, perché... Bene, arriveranno armati, e attenzione. Vabbè, quando arrivano armati, cioè, li respingiamo con le armi, li respingiamo con le armi. Non ci sarà da ridere. E li respingiamo con le armi in quel caso. Li respingiamo perché è bello, una roba civile. E che dobbiamo fare? Se quelli arrivano con le armi, che facciamo? Senti, tu di dove sei? Sono di tanti posti. Di tanti posti. Nato a Roma, sono mezzo umbro, che c'entra? Adesso dove sei? A Milano. E che cazzo fai nella mia città, là? Io sono razzista, non ti voglio a Milano. Ma che c'entra adesso? Che paragone sbagliato che fai? No, ma è una questione di politica, è questione di passaporto, ma cosa vuol dire? Dai, su, ma non è così. Adesso diglielo. No, non c'entra niente il no, sud. No, guarda, una volta non potevano entrare i meridionali, sì. Se ti ricordi. Ma non c'è. Una volta erano i meridionali. Ma non c'entra nulla, dai. Ai dazi, capito? Ma no, attenzione, che è una cosa irreversibile questa, non sto dando ragione a nessuno. Scusa, però Oliero, sto dicendo che è una cosa irreversibile. Ho capito, ma bisogna, uno Stato deve reagire, uno Stato deve avere delle regole. Altrimenti entra chiunque. Non la Bossi Fini, che è una legge dei due cretini. Vabbè. Anzi, fa anche rima, la Bossi Fini è la legge dei due cretini. È ancora te, Sebo. Una piccola zanzara che l'estate mi tortura. Cornute che non sono out, questi sono dei cornuti. Tu sei come una piccola. Siamo con Oliviero Toscani, 800 24 00 24. Fan, insomma, elettore, forse non so nemmeno se chiamarlo così, elettore, comunque vicino alle posizioni di Grillo. Però Oliviero, su questa, perché tutte le posizioni, vabbè, sono, sì, d'accordo, ma su questa storia dell'immigrazione dice stronzate Grillo o no? Senti, io penso che spetta ai paesi civili, noi diciamo di essere un paese civile, di cercare di risolvere questo problema. Vabbè, questo perché è scontato. È un problema che non può essere altro che così, ci sarà immigrazione, c'è poco da fare, però devo anche dirti che tutti i grandi paesi hanno avuto grandi immigrazioni. A partire dagli Stati Uniti, che ha fatto solamente gente immigrata, la Germania, un terzo della popolazione tedesca ormai è immigrata, metà degli svizzeri non sono di origine svizzera, cioè posso andare avanti. Quindi qui c'è un problema da risolvere, è inutile che tu faccia parlare questi cazzi di razzisti che arrivano lì e ti dicono ste cagate nella tua trasmissione, ma devono capire per il loro bene che scusa, è un problema, scusa, da risolvere. Toscani, Borghezio come lo definisci? Ma poverino, cos'è che definisca Borghezio? Si chiama Borghezio. No, ma come lo definisci Borghezio? Ma è un ritardato mentale, poverino. Addirittura? Ma sì, è un subumano, non puoi più al giorno d'oggi essere così. Un subumano, ma dai, sì, su. Ma su proprio. Cioè, sub, basso. Sub. Cioè, giù. Proprio sotto i sub. Beh, e Grillo quando dice queste cose? Sull'immigrazione. Anche lui è un subumano. Pure lui? Sì. No, ma Oliviero, scusa, ma abbi pazienza. Scusa, ma dici delle cazzate anche lui che sono fantastiche, proprio da per ridere. Ma spiegami una cosa, perché se uno vuole il reato di clandestinità che c'è in altri paesi, allora, tu lo consideri un subumano? Clandestino è una parola che non ha senso. Ma come in no? Francia c'è chi ha il permesso di entrare e c'è chi non ce l'ha. No, allora, in Francia si chiamano i senza documenti. Ma è uguale, in Italia si chiamano allo stesso modo. Clandestino, non esiste proprio clandestino. Cosa vuol dire clandestino? Ma clandestino significa uno che non c'ha il permesso di entrare in Italia. No, nei paesi normali non è che si entra e si dice buongiorno, posso entrare? Prego, entri, dai, su. No, ma che non così chiaramente, prego entri, però c'è questo grande problema, ci sono delle guerre attorno a noi, è inutile far finta di niente. Vabbè. Quindi va questa cosa, non diamo abbastanza tempo a questo problema di discussione, dovremmo discuterlo molto più profondamente con tutti gli stati europei invece Vabbè. Di parlare dell'euro. Vabbè, Oliviero, la Boldrini che parla contro le donne in pubblicità che servono a lei, poverina. È una donna antica lei. Perché la donna che decide di stare a casa e educare i suoi figli, non solamente è liberata, ma è liberata la seconda potenza. Cioè? Non ho capito. Cioè, la donna che decide di stare a casa e curare e educare i figli. Sì. È una vera donna liberata e se se lo può permettere e fa una roba così. Sì. Bisogna avere tanto rispetto. Ma no, la Boldrini non si dovrebbe fare un po' gli affari suoi? Perché si occupa della pubblicità? Sì, lo trovo anch'io, fra l'altro. Hai ragione. Cioè, non è che il Presidente della Camera interviene sulla pubblicità. Ma sono in vecchia posizione da femminista. Purtroppo la Boldrini è sempre fuori moda. Nel senso, ma come la vedi te dal punto di vista pubblicitario? A chi la accosteresti? No, ma cosa vuol dire? Ma trovo una tale stupidaggine. Pensa al Presidente della Camera italiana che perde tempo a dire queste cazzate qua, ma non è possibile. Questo pure è vero, eh? Questo pure è vero. No, non è possibile. Ancora sei fissato con Barilla, pure te? No, basta con questa storia di Barilla. No, io ho scritto una lettera 30 anni fa a Guido Barilla. E se vuoi domani ve la leggo. No, oggi perché? Ah, mandamela, sì. Dicendo che la famiglia del Mulino Bianco è un'immagine violenta. Sì. Perché se tu sei un bambino che non ha la famiglia felice, ma che ha la mamma che fa la cameriera, il papà disoccupato, magari sì, il fratello in galera, sì, la sorella che fa un mestiere. Ho capito, ma scusami, no, un attimo. Dici, ma che cazzo, perché io non sono fatto così? Perché la mia famiglia non è così. No, però scusami, scusa. No, no, è deviante, violentissima, il mulino bianco va eliminato. In che senso va eliminato? Ma come eliminato? Eh sì, è quell'immagine della, della famiglia felice, è l'uno per mille. Ma ho capito, ma uno deve fare la pubblicità, non è che deve fare la sociologia, non è che deve... Appunto, faccio una pubblicità intelligente, non una sbarillata. E che dovrebbero fare? Ma tu lo dici perché non hai mai fatto la pubblicità per la Barilla, non ti hanno mai dato i soldi, questa è la realtà. Ma cosa dici, cazzate? C'era il padre che mi ha chiesto persino di fare le foto al matrimonio del figlio, mi sono rifiutato. E perché? E perché, scusa? Ma veramente? Perché? Non avevo tempo. Ma perché ti sei rifiutato, Oliviero? Dai, su. Non avevo tempo. Ma tu ce l'hai, ma ce l'hai con loro per qualche... tu sei sposato? Sì, sono stato, sì. Ah, sì, peccato, se no ti faccio le foto al matrimonio. Sono bravissimo io. Ma le foto ai matrimoni, Oliviero, sì, dai, su, dai. Ma come no? Ti dico che ho fatto matrimonio, sono bravissimo. Ma vai allora alla... c'è fra poco una cerimonia per il figlio di Parenzo che è nato il 29. Vai là a fare no, le foto. Silvietto? Quante soldi vuoi? Quanti no, soldi? No, è una cerimonia lei Cruciani ha sempre questa idea di mettere allora, in piazza anche. No, no. Ma ora devo fare la circoncisione. Sì, esatto, bravo. È una cerimonia bravo privata, per cui insomma, voglio dire, non vabbè, ma lei io vengo a fotografarti il figlio. Eh? A fotografare Silvietto. Non c'è bisogno, diciamo, di grazie della cosa. Ma, cioè, ma perché, scusa, non può venire a farti le foto? A farti no, la... ma vado, se mi chiama vado. Ma la foto della circoncisione è meravigliosa. È fantastico, non c'è bisogno, dai, diciamo, di mettere sempre tu, di lavare facciamo sempre la copertina così. Famiglia cristiana, la circoncisione e Silvietto. No, non c'è bisogno, diciamo, sempre di no. Vabbè, ma dai, ma non è successo nulla. Stiamo dicendo che Oliviero Toscani si è proposto per... Io mi carico con queste cose. Oliviero Toscani si è proposto per farti le fotografie alla circoncisione del bambino. Ma io, guarda, ti ringrazio, ma francamente... Non scherziamo sulla religione, con Parenzo. No, per carità, per carità. Per carità. Non sia mai. Non sia mai. Io non ho capito perché. Perché il signor Barilla si dovrebbe adeguare al politicamente corretto. Ma non deve adeguarsi, ma non deve dire che... faccia delle cose un po' più intelligenti, mi interessa se deve fare, ma anche dire facciamo la pubblicità con gli omosessuali è una cazzata, come dire facciamo la pubblicità con la mulino bianco. Sì, ma ho capito, ragazzi, ma uno sceglie il suo modello e lo persegue, lo prosegue, qual è il problema? Non ho capito. Ma non è nessun problema, infatti non c'è nessun problema, siete voi della Zanzara che fate questo problema qui. No, veramente noi non c'entriamo niente, noi abbiamo semplicemente riportato, riportato. Insomma, io trovo che il signor Barilla, se non vuole fare la le campagne con gli omosessuali, non le faccia, va appunto bene, però devo dire, però deve anche accettare le critiche della sua famigliola felice nel mulino bianco, perché è violenta. Ecco, tutto qua. Va bene, Oliviero, ti abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, fate bravi, non andate in televisione, vi fa male. Blob. Ciao. Diverso dove tutto è perverso, circostanze assurde. Non creda che siete venuti qua e ci avete trovato per strada, le ripeto, abbiamo capito benissimo che a voi della questione dell'immigrazione non interessa nulla, no. Cioè a voi vi interessano, diciamo, gli immigrati esclusivamente quando vengono a pulire le vostre case, chiaramente. Beh, no, non noi. Vi interessano gli immigrati che vanno a raccogliere i pomodori a 3 euro all'ora. Vi interessano gli immigrati che puliscono i cessi, come si dice a Roma, del resto a voi non vi interessa. Ma glielo dica, a Borghezio, non a noi. Questo è il razzismo ideologico. Io a Borghezio non gli dico nulla, perché una persona che vuole fare, si ispira ai Celti per fare la politica in Italia. Meglio ai Celti che persone li ispirate serie. Voi. Ovviamente Blob saccheggia Radio Belva. Sospesa, eh. Should never happen again. Allora. Va bene, Davide da Ravenna, buonasera. Buonasera, sono, sono molto arrabbiato con lei, signor Cruciani. Ho visto il programma di ieri, è stata una cosa indecente. Non lascia parlare oh, i suoi ospiti. Ma è Vichingo, mitico, Vichingo, Vichingo. Sono io, allora... che proprio denuncio a questo buonismo maledetto che veramente rende tutti voi giornalisti servi di partito, servi di governo. Basta discriminazione. A signori di prima che ci ha definito razzisti, quelli che la pensano diversamente da lui, io dico che è lui, Oliviero Toscani, il razzista. Questi comunisti da salotto con la pancia piena non sanno come viviamo noi italiani discriminati, noi italiani che non abbiamo la possibilità di usufruire delle case popolari. Ma di che parli, Vichingo? Vichingo? Domenica, contattato da uomini e donne italiani che non trovano lavoro in Italia, faccio lo scafista da Trieste, che porto nella costa slovena, lo faccio a mie spese, lo faccio questo gesto, e me ne assumo ogni responsabilità morale. Aspetta, fermo un attimo, ancora Blob. Immigrazione, ma voi dovete essere espulsi, la Lega a breve deve essere espulsa o se no deve rinunciare la democrazia. Vado alla sede di Sella a dire queste stupidaggini, caro Borghezio, la xenofobia. La Lega deve lei è spella. Guido Bagatta, eccolo qui, ciao Guido, pizzicato. Ti vedo bene però, eh? Perché? No, perché no, credevo peggio. Cioè, dovrei essere depresso? No, no, tutt'altro, però ti ho visto, diciamo, un po' costipato nel senso fisico ieri sera. Ho visto l'ultima mezz'ora, che è quella che dovevo vedere. No, è quella che non dovevi vedere in realtà. Purtroppo avevo da fare fino alle 11 e mezza. Effettivamente mi hai visto nell'ultima mezz'ora leggermente timoroso, insomma, leggermente così. No, ti ho visto in versione, un po' agnellino alla fine, cosa che non ti aspettavi. Esatto, però bisogna anche fare quello. No, però Parenzo, conosci il signor Bagatta? Insomma, Bagatta di persona non lo conosco, ma insomma di fama Guido Bagatta, beh, insomma, amico grandissimo, conoscitore, esperto di sport americani, volto televisivo degli anni che dagli 80 in poi, va. Detto così sei quelli proprio che sono in frigorifero. Sei un po' begliardo, no? Dagli 80 in poi. Combatto. Ha un fisico pazzesco, ce l'avessi tu sto fisico, cioè 37 anni sembri più vecchio del Bagatta che ce l'ha più di 50. Però anche Parenzo ieri l'ho visto muoversi molto bene, nel senso come gestione. Non cercare di rimediare, non fare il buono pure te. No, ci sono state tante, nella mezz'ora che ho visto c'erano tante cose che non mi sono piaciute, però il vostro movimento di scena andava bene. Vichingo? Mi dica. Ma che vuoi? Maestro, che fai? Lo scafista? Sì, faccio lo scafista occasionale. Visto che mi chiedono aiuto, tanta pensa a uno sfigato come me, che lei mi definisce uno sfigato giustamente perché mi vede così, il Vichingo. Io sono Davide Fabbri, che ho fondato il movimento Pirata Lavoro e Rispetto per combattere le discriminazioni. Parenzo, rispondigli tu al Vichingo, ti prego, rispondigli. Mancava solo in una giornata come questa il contributo culturale del signor Vichingo, che rivendica di aver fondato un movimento che si chiama, è un movimento pirata, Lavoro e Rispetto. Dai, Vichingo, dai. Attenzione. No, tra l'altro, aspetta, Parenzo, la vergogna del Vichingo, aspetta un attimo, zitti tutti. La vergogna. Ma meno male che non l'abbiamo invitato ieri sera, sì, il circo equestre. Sì, effettivamente potevamo pensarci a invitare Vichingo, cioè sarebbe stato un mostro in più. Un mostro in più in quel circo Barnum che c'era. Ti immagini come signor Gatico, signor Vichingo? Signor Vichingo che gli diceva: io ho fondato un movimento che si chiama Pirata e Rispetto. Pirata e Rispetto, sei un cretino, capra, pirata niente, non esistono i pirati, cretino. Magari se la sarebbe presa con lui, capito? Sì, infatti, dovevamo scatenarli contro. Bisognava invitare i cartoni animati, lì c'erano in studio dei cartoni, ti ricordi che c'era il signor Kamikaze? Sì, ma ho dimenticato tutto. Comunque, però, posso dire una cosa? Aspetta, Guido, Vichingo? Allora, il Vichingo era perfetto, io me lo ricordo quando istruiva Parenzo su come abbordare lezioni d'amore. Un po' come Sgarbi è perfetto quando parla d'arte. Sì. Poi, quando si esce un po' dal percorso, adesso, spero che Sgarbi non stia sentendo perché gli insulti non vorrei riceverli io, piaci un po' meno. Sgarbi, il critico d'arte, è il numero uno. Per il resto non lo so. Il Vichingo, come esperto d'amore, era veramente un must per quelli che a Riccione volevano andare a braccolare. Ma perché Vichingo adesso ti metti a fare politica, i movimenti, lo scafista e basta. Poi tra l'altro sei pure un simpatizzante, hai fatto dei manifesti contro la Chieng, una vergogna. Cosa hai fatto l'altra volta? Manifesti con... No, ho denunciato la Boldrini per quello che l'ho sentita dire. Ma hai denunciato la Boldrini? Vichingo! Denuncia la Boldrini, sì, perché? No, beh, cos'è? Non lo sai? Non lo sa, signor Cruciani? L'ho denunciato il 30 giugno scorso alla caserma dei carabinieri di Milano Marittima. Pure. Perché in piazza Montecitorio, insieme a due testimoni, le ho sentito dire queste parole. Alla domanda del giornalista che gli chiedeva con quale criterio darete le case popolari, lei ha risposto, e l'ho vista e sentita con le mie orecchie, daremo le case popolari in precedenza a zingari e extracomunitari con figli a carico. Ma quando mai? Vabbè. Ciao, buona Pasqua a tutti, ciao. Allora, mi scrivono, comunque i miei figli potrò dire io l'ho vista Radio Velva, però ci sono moltissimi che mi scrivono il disastro di Giuseppe Cruciani, la chiusura di Radio Velva è una splendida notizia per il giornalismo italiano, forse financo dell'Italia, caro Parenzo, pigliamoci un po' per il culo, pigliamoci un po' in giro. Adesso, io voglio capire, no, signor Vichingo, signor Vichingo, sono interessato al signor Vichingo. No, questo è il mio rammarico di non aver invitato. Esatto, il grande rammarico di non aver invitato il Vichingo, perché almeno uno... Mancava solo lui, ecco, mancava però, solo lui. Almeno col Vichingo, morire accanto al Vichingo, Davide. Come si chiama il partito suo? Partito Pirata Lavoro e Rispetto, non è un partito. Ma quale lavoro, quale rispetto? Noi non siamo partito, siamo dei rivoluzionari. Da, ma quale rivoluzionari? Ma pensa a dare lezioni, pensa a dare lezioni di Bonton, di rimorchio, no Bonton? Vuoi che ti dica una bella tecnica di seduzione che funziona sempre? Ecco, dilla a Guido Bagatta, che no, anzi no, è fidanzato, non può. È una tecnica di seduzione che serve soprattutto per i precari disoccupati italiani. Si devono dipingere la faccia di nero, la mano di nero, vanno alla prima sede CGL della propria città, fanno finta di non parlare, di non capire, di non parlare italiano, e il lavoro glielo trovano subito, perché la CGL è l'ufficio di collocamento per gli stranieri. Ma basta, ma ti sei messo a fare politica seriamente, Vichingo? Guido, rispondigli tu, che una sei messa... discreta cagata, diciamo, dai, quella che ho appena sentito. Dai, su. Io a Bologna 3 anni fa mi sono finto straniero e ha funzionato. Mi sono finto un... Ma perché sei impazzito? Seconda... Perché sei impazzito su questa cosa? Ma pensa a dare lezioni perché di sesso, a dare lezioni di seduzione, Vichingo, dai. Sono preoccupato per le mie figlie, perché la mia figlia ma di 16 anni l'ho accompagnata in stazione domenica davanti al treno a Ravenna, è salita, scendeva d'Argenta dove aspettava la sua mamma, è stata importunata. E la ma qui... E questa è la vergogna di questo paese, nessuno dice niente, voi ridete solamente. Ecco perché io sono indignato. Mandatemi l'ambulanza, mandatemi l'ambulanza. Sì, però, sì, dai, sono indignato. Il Vichingo indignato è fantastico. Tu pensa alla faccia. Ma secondo Vichingo... te è serio quando fa l'indignato, Guido? Secondo me sì, il Vichingo tra gli indignati. Te lo è il manifesto degli indignati, quelli veri, con la faccia del Vichingo. È meraviglioso. La credibilità degli indignati azzerata la credibilità degli indignati, che è stata una cosa seria per almeno 6 mesi, azzerata in 6 secondi netti. va bene, grazie. Posso dire l'ultima cosa? Che vuoi, Vichingo? Che c'è? Faccio una denuncia. No, basta, su, basta. Sei stato già 7 minuti. Posso che sei in diretta. Posso fare una denuncia, per cortesia? A chi la vuoi fare sta denuncia? Avanti. Alla Laura Boldrini e alla Cecil Chienge. Aridaglie con sta Boldrini e Chienge. Pure tu ti ci metti. Mancavi solo te ieri sera. Dimmi. Mi considero responsabili morali, sì, delle 311 vittime. Vabbè, l'hanno già detto quelli della Lega, sei arrivato tardi. Vabbè, grazie Vichingo, ciao, vattene a casa, va. cazzo hai crociato? Sai qua, sai qua, non devi obbedire uno stronzo. Lo stronzo è stronzo e tu rimani qua. Qua comando io. Non ordinare di andarsi, ti spacco la testa io. Lei rimane qua, non rompere il cazzo. Tu sei un povero coglione. Ma perché? Quello sei. Minimo, minimo, minimo. Lascia qua. Vittorio. Cazzo. Sei un coglione. Vabbè. Fatto e rifatto. Nullo. Se vuoi. No, non vado da nessuna parte. Ne sto qua. Ti piscio in testa. No, qua. Ma no. Ti piscio in testa. Ospite con noi Guido Bagatta, eccoci qui, avete visto, suggerimento suo, Video Kid Radio Star, da me stamattina, sposato. Dalle 9, quando ho aperto e ho visto gli ascolti, sì, e sì, ho pensato al vostro mero destino, oh, senza offesa, mi sono visto Parenzo che fa il coretto. Esatto. Mi sono visto questa immagine e adesso finalmente... Com'è il corretto? Le Buggles, perché era delle Buggles questo pezzo. Tra le Buggles c'è anche un giovane Parenzo ancora, sì, lo vedo tipo Riccardino in Indietro Tutta, in mente. Esatto. Con le grembriule, esatto, così che... E così smaltisce la delusione della scorsa notte. No, ma sai, c'è una delusione che ho, un rammarico, che è quello che nello studio, forse non si è visto, c'erano un gruppo di figuranti travestiti da cartoni animati, sì, e c'era un signore, questo va svelato, che era vestito da Mazinga. Oh. Da Mazinga. Ecco, il signor Mazinga avrebbe dovuto, nell'idea originale, fare una domandina al signor Sgarbi sulla sua pensione, e quindi si immaginava a un certo punto il signor Sgarbi che se la prendeva con Mazinga, no? Ora, questo non è stato possibile, diciamo, realizzarlo, perché visto quello che poi è successo, abbiamo ritenuto inutile che il signor Mazinga intervenisse versus Vittorio Sgarbi. Però immaginati la scena, no? Di questo qui travestito da Mazinga, sì, che si alza e dice: poi lei Sgarbi c'ha la pensione, e Sgarbi: cretino, cazzo, quale pensione? Il litigio tra Sgarbi e Mazinga. Dai, mettiamo sta canzone fino alla fine, va. Così sa, il loop. Così sa, andiamo. Un'ora e mezza. Tu resti qua perché fra poco ti presento un personaggio eccezionale, fra poco, uno di quei mostri, qua, uno di quei mostri pazzeschi. Alice da Torino, no, mostri per modo di dire, però insomma, sentiremo. Alice da Torino. Non protestate voi là in regia. Alice, prego. Buonasera, senta, io chiamo... Ah, ma Alice è quella delle Fisherman! Del ah no, tra l'altro, scusami, Giuseppe? Ma posso rivelare, ma a questo punto sì, rivelo questa cosa. Stamattina alle 11, sì, dopo visti gli ascolti, eccetera, mi chiama da Strasburgo il, sì, signor Borghezio, sì, ti giuro, Sì. No, davvero. È che non potevo neanche ridere perché eravamo in mezzo a una tragedia poi, epocale. La morale di questa cosa è questa: chi di Borghezio ferisce, di Borghezio ferisce. Chi di Sgarbi, sì, ferisce, mi telefona. Io pensavo fosse incazzato nero, perché voglio dire, ieri gli abbiamo detto del razzista schifoso, leghista, odiatore, cioè gli abbiamo detto di tutti i colori al signor Borghezio ieri. No, mi chiami, mi sembra che le cose siano andate piuttosto benino, no? Dico, insomma, benino, francamente non tanto, però siamo riusciti a dirlo di questi immigrati, Padania libera, quando vuoi io ci sono. Ma dico, guarda, Borghetti, ci sono altri problemi adesso, no? Ci sono altri problemi, io sono già pronto a tornare lì a lottare. Ma quale? Tornare libera. Dove? Ma dico, ma lottare come? Ti abbiamo detto che sei un razzista. Ah, mi pare stata piuttosto benino ieri, no? Padania libera. Ma dico, insomma, mica tanto. Alice, allora... E poi Borghezio, nel delirio di ieri, a un certo punto, quando c'era Sgarbi che ti voleva quasi tirare una testata, io per sdrammatizzare a un certo punto ho detto: lei Borghezio che vuole dire? E lui in fondo: libertà, fuori di Ball. E come... Vabbè. Va bene, Alice, dunque? Ma Alice, lo sai chi è? Lo sapete chi è Alice? È quella che, caro Guido, non so, tu sei un grande intenditore della zanzara, forse più di me, è quella che... Del rapporto orale con Fisherman, è lei. Esatto, bravo, è lei. Alice ha una voce eccezionale, Che faccia ha però Alice? Vabbè, quello è sempre un mistero e deve restare io un mistero. Io ero in palestra. Sì. Io ti sento in palestra alle 7:30, sì, con la cuffia, sì. Quando Alice disse appunto la famosa regola della Fishman, mi immaginavo non tanto il momento ma la faccia di Alice. Guido Bagatta vuole sapere com'è la tua faccia, però se vuoi descrivila, anche se poi non renderà. Mi spiace per lui, ho chiamato in questo momento. Non fare così la serie, se vuoi, del gruppo spontaneo Delirio Vaginale. Cioè, non ho capito, che il gruppo spontaneo? delirio vaginale, sì, che è nato per colpa vostra naturalmente. Cioè in che senso? Scusa, questo è interessante questa cosa. È nato un gruppo spontaneo delirio vaginale? Delirio vaginale, sì, di uomini e donne, infatti anche genitali incompreso, un po' per par condicio. Che è stato sospeso oggi su Twitter dopo mille segnalazioni, soltanto perché sosteneva che è stato un gran godere vedere Radio Belva ieri sera e comunque è un gruppo sostenitore della Zanzara. Allora ho chiamato per mandare a fare in culo tutti gli stronzi che hanno segnalato quell'account. Cioè non ho capito, è stato sospeso questo account delirio vaginale? Sì. E perché è stato sospeso? Perché sostiene Radio Belva, i metodi antipatici di Cruciani e Parenzo, sostiene il modo di fare della Zanzara, perché è un gruppo che è nato da zanzarini che seguono voi tutte le sere come dei coglioni e ridono di quello che accade. Allora niente, è stato segnalato, massacrato in 24 ore, l'ho sbloccato 3 volte e alla fine adesso grande complotto, questo e forse me lo ridanno. Il grande complotto c'è stato. Io voglio capire da Guido Bagatta se lui è a conoscenza di rapporti orali con le Fisherman, cioè se questa storia raccontata ci credo ormai 2-3 mesi or sono dalla signora Alice da Torino, in realtà lui che è un grande conoscitore di queste cosse, per l'età, dico, non fosse altro che per l'età, che no, non ho ricevuto, riscontro, no, è la prima web volta e non ho mai più sentito, per quello sono incuriosito. Comunque sul delirio vaginale, come si dice in inglese, cara Alice, ti posso assicurare che Cruciani is salivating, nel senso che aveva la faccia molto compiaciuta, gli piace da morire il gruppo delirio vaginale, moltissimo, sì, però Alice, allora sostengono sto appello perché gli stronzi la smettano di segnalarlo soltanto, ma tu riscrivilo, rifallo delirio vaginale 2, lo rifai e vai di nuovo su Twitter, non è che cambia tanto, sì, però è una rottura, io lavoro anche, capisci, non è che posso passare le mie giornate, che a cos'è che facevi, scusa, il blog, signora dei pompini con le Fisherman, blog net, sì, ma lascia perdere adesso blog, eccetera. Alice era la signora dei pompini con le Fisherman, diciamolo tutto. No, ma era così, cioè fa l'igienista dentale. In realtà sono quella che ha detto che può venire il tumore in gola facendo i pompini e il cunilingus. Vabbè, comunque. Posso però chiedere una cosa? Dimmi. No, perché il problema non è per lei, ma poi lui rimane con, diciamo, il. Perché la menta provoca anche un po' di, sai, quel... No, se avesse sentito la sessuologa saprebbe che non provoca niente di male, anzi. No, però rimane quella specie di... Sì, però la cosa che voglio sapere da Alice è un'altra. Anche la saliva, Sì, però, Alice, scusa un attimo, ma continui ancora con le Fisherman oppure hai sospeso questa attività? Hai cambiato marca. O hai cambiato caravella. Perché non sono fatti che vi riguardano. Ma no, ma come no? Parenzo, sei scomparso, che hai fatto? Quando si parla di pompini scompari, come mai? Ma diciamo che questa augusta conversazione la lascio praticare a noi, sì, a noi che siamo un po' più terra terra. Vabbè. A chi è esatto, vabbè. Sì. Sì, lodato Gesù Cristo. Sempre. Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra televisione, voi cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivi! Certo. Oh, non rompete il cazzo! Rispettate le cose! Ma c'è il problema! Quindi lei rimane qua! Avete... Ma qual è il problema? No, il problema è che sei un coglione! Dillo che tu dica, è un coglione quello! Che è un coglione fascista! Come ti sei? Prima ce lo li fa mostrare, che c'è da io? Ma non devo mostrare niente. Come loro rispettano la gente. Attimo, non vanno rispettati. Però, non vanno rispettati. Vittorio, scusami, vanno mandati a cagare. Però Vittorio, chiaro? Non ci sei solo tu e il tuo egoismo. A me non me ne importa un cazzo neanche di te. Non me ne frega niente, non me ne frega un cazzo. Loro rispettano la gente e vanno mandati a cagare. Raccapricciante, perché parli sempre solo di te. Io parlo. Però me ne importa un cazzo di quello che dici, tu non hai un cazzo da dire. Però me ne voglio niente da dire, non dici un cazzo. Sai che cosa ti dico? Non litigare, voglio che ti dicano che sei una troia, così vieni come no! Tu. No. Eccoci qui, 800-24-00-24, la Zanzara, ospite d'onore Guido Bagatta, qui negli studi di Milano, sempre David Parenzo in collegamento da Roma. Che c'è Guido? Che c'è? No, no, mi viene da ridere. No, pensavo, a parte Parenzo, il corretto di Parenzo, poi vedendo anche ieri, di solito la Parietti che è una che è affilatissima, che anche lei è stata schiacciata veramente come un piccione da una macchina in corsa. E d'altra parte non, magari non è il vostro caso, però siccome Sgarbi viene invitato per fare ascolti, sì, alla fine doveva succedere una cosa del genere, che gli ascolti li distruggesse. Alla fine ve l'ha chiamata e vi ha tirato. Chi di Sgarbi ferisce? Chi di Sgarbi ferisce. Questa è la verità. Allora, Giovanni da Pisa. No, ma è così, è un po' come andare, è un po' come, sì, guarda, la metafora è questa qua, è una cosa che è successa a tanti di noi maschi. Mangi del peperoncino, ti dimentichi di averlo mangiato, vai al bagno e fai la pipì. Un bruciore pazzesco, no? Se non ti lavi le mani. Cosa voglio dire? Voglio dire che abbiamo, ecco, cerca di farti capire meglio, che non abbiamo capito un cazzo, scusami. No, voglio dire che se tu, beh no, è semplice però, se tu... Sarà pure semplice, però. Il peperoncino, se tu lo tieni in mano, no? Lo sbricioli nella pizza, poi, sì, ti dimentichi improvvisamente, vai al gabinetto, sì, e cosa succede? Che ti brucia da morire tutto, no? Diventa, sì, tutto infuocato. Cioè noi abbiamo messo troppo peperoncino nella pizza. Vabbè, guarda, adesso stai andando sul tecnico, ma chi se ne frega, dai, su. Visto questo aneddoto, se vuoi poi ti racconto quello del preservativo ritardante. Beh, questo è ottimo, soprattutto perché ti devo introdurre chi? Roy Dolce. Buonasera, signor Dolce. Buonasera. Come stai? Anzi, radioascoltatori, benissimo, solo che mi avete interrotto. Qui è un coito interrotto, non possiamo. Ma come un coito interrotto? Scusami, Roy. Io sto lavorando. Ma cioè, allora dovete sapere che il signor Roy Dolce è un gigolo. Caro Guido, è un gigolò. Un gigolò che vuole pagare le tasse, questo è il punto fondamentale. Cos'è che l'altro giorno leggevo sul Corriere della Sera una cosa, cioè, tu vuoi pagare, ma quanto guadagni? Scusa, spiegami, facendo il gigolò al mese? Ma insomma, il guadagno è tipico, cioè come un manager più o meno, ma non è questo il fatto. Ma tutto in nero guadagni? È chiaro, anche perché la mia professione non si può legalizzare. Cioè sui 10.000? Siamo sui 10.000 al mese, Roy? Sui 8-10.000 al mese, esatto. Però ma... il problema non è mio, sì, io vorrei pagarle le tasse, ma se lo Stato non mi mette in condizione di farlo... Vabbè, quello lo sappiamo. Appunto, quindi... Se dovrebbero loro... fare l'albo degli gigolò, secondo te? L'albo professionale? Ma anche delle escort. Albi no, ma è meglio di no. Però dovrebbero legalizzare tutto, vero Bagatta, o no? Sì, immagino lui che rilascia la ricevuta alla fine del rapporto, che dice scusi un attimo, mi dai i suoi dati, compila una ricevuta, oppure ha, sai, quelle macchinette già portatili con lo scontrino che esce automaticamente e lo deposita alla signora, puoi immaginare anche dove. Scusa, quanti rapporti fai al giorno per guadagnare, quanto è che guadagni, 10.000 al mese? No, ma... un uomo non lavora come una donna, quindi io più o meno faccio 4-5 incontri settimanali. Però ah, ecco, 4, beh, insomma, 4-5. Scusa, posso? Sì. Quanto ha cambiato la vita di un gigolò l'arrivo delle pastiglie tipo Viagra, non Cialis? Non mi dire che non usi nulla, dai. Beh sì, mi aiuto, è chiaro, qualche volta mi aiuto, però il problema è, cioè, a livello medico il Viagra o il Cialis non è che funziona, aumenta insomma la libido quando una donna ti piace, ma se una donna non ti piace, anzi ti fa schifo, il Viagra ne puoi prendere una scatola che non funziona. Vabbè, non mi dire che vai con tutte le donne che ti piacciono, che non ti fanno schifo, perché non ci credo, dai, adesso in questo momento non è che stai con qualcuna, non è che il tuo... Sì, io in questo momento sono con una cliente, ma, insomma... Scusa, da... come sei con una cliente e parli con noi alla radio? Lei in bagno che... Ma non ci credo, dopo me la passi, non ci credo, dai, sta facendo buffone. Poi te la passo subito, ti saluta. Passamela. Vuoi salutare Giuseppe? Chi è? Te la passo. Ma no, ma come una cliente? Si fa riconoscere, non è possibile. Chi è? Sì, buonasera, ma lei non è una cliente di Roy? Scusi, ma lei chi è? Sono Giuseppe Cruciani, buonasera. Ah, buonasera. Ma lei è una cliente del signor Roy? Sì. Quanto paga, scusi, per questa prestazione? Questa è una domanda riservata, non mi va di dirglielo. No, ma lei è un'amica, non è una cliente, su, non è possibile. No, io sono una sua cliente, ma io non voglio parlare alla radio. Ma quanti anni? No, per sapere l'età, No, non mi va di dirlo. Una cinquantina, 50, 55, quanti meno, anni? Meno. Ma che ce va a fare con uno per pagare? Ma è davvero così, cioè tromba la grandissima il signor Roy Dolce, o no? Insomma, non è solo quello. Non sta è solo quello. Con lui. Sta bene con lui. Sì. Ma lei non ha un fidanzato, un marito, qualcuno? Ma non posso dirglielo. Ma tu ci credi a questa cosa, Guido, oppure è tutta una sceneggiata? Sembra, guarda, se non ti conoscessi, potrebbe, sentita da fuori, potrebbe essere tutta costruita da te, marchingegno, prima della trasmissione. conoscendoti ci credo in parte, mi sembra un po' improbabile che una cliente così prenda il telefono, sì, parli, prenda, non so, ma Roy quanti anni ha? Roy quanti anni hai, scusa, quanti anni hai? Io quanti anni ho? 40. 40, scusa un attimo, ma davvero stavi con una cliente? Beh sì, io sono a Roma in un albergo, ma comunque è una mia cliente ormai da 6-7 anni. Da 6-7 anni? Sa cosa faccio, sa di cosa si tratta. E cosa fai? Cosa fa? Sa cosa faccio? Ma che cosa fai di particolare, scusa? Esatto. Dai, su, cosa fai di particolare? Ma chi, lei? Di no, chi tu. Ah, io che cosa faccio di particolare? Bisogna provarmi, è chiaro. Beh, ma ho capito, ma sarà così un sesso normale, cioè non è che stiamo parlando ma di sì, ma è più un sesso cerebrale, le donne non sono come noi maschietti, hanno bisogno di più tempo, hanno bisogno di un'atmosfera, di un colore, di una parola, di un'attenzione in più, è chiaro, noi siamo più istintivi, animaleschi, la donna è più cerebrale, quindi va corteggiata in un certo modo. Però scusi, signor Roy, mi dica una cosa, sono incuriosito dalla questione... Ma davvero ci sono un sacco di donne disabili che sono sue clienti? Perché il sesso si capita, si capita, perché poi in Italia manca proprio un personaggio che è l'assistente sessuale, che in tutti gli stati c'è, insomma manca in Italia, purtroppo le disabili e quelle che vogliono magari avere una conoscenza un po' più approfondita per quanto riguarda, cioè tu hai come clienti delle donne disabili? Sì, ho delle clienti disabili che poi molto spesso ti chiedono magari solo un'attenzione, un abbraccio, chi lo può fare, altre invece ti chiedono sesso tranquillamente, anche perché il letto è l'unico posto dove si sentono veramente donne e normali, tra virgolette, anche se lo sono, anche se sono... Vabbè, questa era la prima puntata con Roy Dolce di Storie da un gigolò. Ciao Roy, ti richiamiamo, ciao, un saluto, ciao. Giovanni da Pisa, buonasera. Caro Giovanni, mi sa che tu sei l'imbelvito, l'imbelvito. Sì, Cruciani, signori, come va? Quanto tempo? Caro Giovanni, quanto tempo, ti abbraccio fortissimo. Anch'io. Allora dimmi tutto. No, niente, volevo dire soltanto che io non sono d'accordo con Parenzo per quanto riguarda il Presidente della Repubblica e con lei per quanto riguarda gli immigrati. Lo so, ho capito, per me è uno stato più a leggi dure sull'immigrazione, meno immigrati arrivano, e arrivano soprattutto quelli che davvero vogliono lavorare, dopodiché poi noi siamo fatti in un altro modo, siamo un paese complicato, le frontiere sono quelle che sono, la legge è quella che è, spesso sono interpretati in mille modi dai magistrati, abbiamo il problema dei barconi, per carità, è così, ma Parenzo che ha fatto? Scomparso? Che ha fatto? È morto? No, ci sono, solo come tu sai, sempre in collegamento col cellulare, sì, praticamente ricevo credo 35 chiamate senza risposta. Vabbè, questo è immaginabile. È immaginabile, insomma. No, di gente che mi chiede come mai non è intervenuto il Mazinga. No, di gente che però effettivamente bisognava far intervenire Mazinga ieri sera. A quel punto potevamo far esplodere tutto con Mazinga. Secondo me a quel punto lì sai com'è. No, mi ha stupito molto la chiamata di Borghezio, quello sì, stamattina, perché aveva la solita voce. Io non riesco a immaginare una persona che viene invitata, a cui sì, comunque gli viene dato del razzismo schifoso, perché sì, alla fine questa era un po' la sostanza. Ti telefono e dice: comunque ieri molto bene, ma dico, no, molto bene, non lo so quanto. Ah, dicevo, noi siamo pronti a fare altre grandi battaglie, potrei calare di nuovo a Roma, ma di qua francamente speriamo. Magari non se ne sente bisogno. Guido, che stai guardando? Sei distratto? No, stavo guardando, perché prima l'amico, c'è un film che si chiama The Session, sì, che appunto tocca quell'argomento lì, gli assistenti sessuali per i disabili. Sì, lo so, che è un tema importantissimo. Quindi che uno sembra che piglia per il culo queste persone. No, è una cosa seria, adesso poi noi stiamo giustamente scherzando, e poi niente, mi stavo immaginando altre scene da ieri sera e poi stavo elucubrando su quello che tu stai facendo. Ma c'era uno in linea? Sì, no, Dolce, ma sei andato via. Ah no, Giovanni da Pisa, l'invito, come no? Giovanni, allora che vuol dire? Sì, hai ragione, Napolitano, non allora, si può permettere... Toscani, ah, ecco, scusami, ecco Toscani, cosa stavo pensando. Mi sentite? Sì. Toscani non ha ragione, di più, come si dice oggi. Ma su che cosa dici? Sugli immigrati, è ovvio. Perché? I danni sono stati fatti, parlo delle... Ragazzi... le cose capito, si risolvono se uno Stato è sicuro di sé, non uno Stato che cambia le leggi ogni 40 giorni. Cruciani, dai, io sono internazionalista. Ma è internazionalista, Giovanni? Lei ma come si fa? Come si fa? io li andrei a prendere con le navi, delle belle navi. Ha ragione Luttwak, bisogna andare lì perché abbiamo i servizi segreti, la marina, capire come partono, impedire che partano, eccetera, eccetera. Ma allora muoiano lì. Cioè, ma che c'entra muoiano lì? Ma c'è un sacco di gente che muore ogni giorno in tutto il mondo. Non è che uno si può far carico di tutto, dai, su. Ma siamo d'accordo, ma siccome si potrebbe... Oh, dai, marina della provincia di Genova. Giovanni, tutto il mondo. Giovanni, cioè, poi anche... l'altra cosa qual era? L'altra cosa, con Parenzo non sono d'accordo, perché il Presidente della Repubblica, quando fa le cose giuste, si apprezza. Ah. Quando dice le bischerate, no. Bravo, bravo Giovanni. Ma tu ci credi a questa storia della Pascale che è lesbica, secondo la Bonef? Direi proprio no. Però una cosa molto importante. Quando si parla di queste cose, appunto, gli immigrati, e vengono portati ad esempio gli Stati Uniti, la follia degli Stati Uniti, che nessuno sa, che ogni anno mettono in palio 50.000 carte verdi, quindi entrate, con una lotteria, e si portano dentro della gente di cui non sanno niente. Ci vanno 10.000 moldavi, 6.000 di Sri Lanka, anche 500 italiani. È una lotteria, 50.000 persone. Diciamo che sono tanti negli Stati Uniti. Sì, però 50.000 assolutamente sconosciuti, che loro non possono poi smistare in Danimarca, rimangono lì. E tra l'altro capita che tra questi 50.000, c'è una statistica, ci sono dei delinquenti. Quindi attenzione, perché l'esempio americano fino a un certo punto calza, questo stavo pensando. Parenzo, che c'è? No, ha perfettamente ragione in questo. Ma tu ci credi che la Pascale è lesbica? Ma chi è che l'ha detto? Scusami? L'ha detto la Bonef. E chi è la Bonef? Scusami. Ma la Bonef è una, signora che la sa lunga, però non so se abbia ragione in questo caso. No, la Bonef, ma perché l'ha detto? È una che ha lavorato con Berlusconi, un'amica di... è stata piazzata da Bondi, non so in quale festival. Ma il motivo per cui l'ha detto è questo quello che... L'ha detto perché si vuole togliere dei sassolini. Io sono stato molto più che una sua amica, dice. Francesca è lesbica, è una grande messa in scena. Silvio ha deciso di annunciare il fidanzamento pubblico con Francesca soltanto per continuare a divertirsi con lei, sue amiche, che ne so, avrà i suoi conti. Che potrebbe essere anche B e ma infatti bene. Questa cosa qui non è, cioè non è, una può essere B e si diverte anche di più. Silvione si diverte di più, ma sicuro. Elena da Lugano, Elena. Sì, eccoci. Sì. No, ma niente, allora io prima volevo rispondere a Toscani, ma ora bisogna che dica una cosa al gigolò, perché? Perché il gigolò ha detto una grandissima stronzata, cioè le donne non sono sognatrici, sono gli uomini che sono sognatori, scusa, gli uomini chiamano le hotline. Ma e che c'entra? Gli uomini, certo. Gli uomini riescono a fare sesso al telefono, ma le donne no. Ma come no? Se gli uomini fanno sesso... No, le donne non lo chiamano l'hotline, scusa, gli hotline li chiamano gli uomini. Sì, d'accordo, ma ho capito. E ma allora, chi è il sognatore? Qui? Ma anche... No, guardi, le assicuro che anche le donne fanno sesso al telefono, io lo posso assicurare. Bagatta, ma conferma. Vabbè, no, ma pagate. La cosa più ridicola del mondo, non lo sai qual è? Pagare. Ti prego, David, la cosa più ridicola del mondo, lo sai qual è? Un comunicato ufficiale del signor Sgarbi. Del signor Sgarbi. No. Sì, comunicato ufficiale. La televisione deve proporre idee, lui, la televisione deve proporre idee, non per tegolezzi o insinuazioni personali. Tutto questo perché ho semplicemente detto il comunicato di Sgarbi. Dai, no. Su, dai. Ma dai. È una cosa pazzesca. Va bene. Ci sentiamo domani alle 18:30 alla Zanzara. Lei è sano di mente? Per adesso sì. Ma perché non chiama ad esempio a Focus Economia? Perché? Perché hanno meno ascoltatori. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai. Radio 24, la passione si sente.